Radio Wombat. Ciao, buonasera a tutti. Sei su Radio Wombat e questa è 8 Hertz, come dice il jingle ormai storico della puntata. Oggi continuiamo con il discorso che avevamo intrapreso la settimana scorsa, ovvero con gli altri due live dei quattro che sono stati fatti tutti all'interno di una serata che fu il 10 gennaio 2019 al Next Emerson a Firenze. Era una serata particolare di sperimentazioni sonore. Nella prima puntata avete sentito Al Mustaqil, ovvero Jacopo Andrini, con il suo progetto appunto solista che si chiama Al Mustaqil, e dai barra muori, insomma, il progetto solista di Brucio, un artista di Firenze, insomma. E oggi invece vi faccio sentire, stasera anzi, i Pontormo e i Tremà. I Tremà erano il gruppo, quello insomma, diciamo principale della serata. Quindi un doppio live anche stasera, che vi manderò dopo questa breve insomma descrizione. Allora, all'inizio sentirete i Pontormo, che è un nuovo progetto di Firenze, tra Firenze e Abruzzo Italia, per citare un po' l'UX, quindi Toscana e Abruzzo, composto appunto da un trio formato da Marco Marzuoli, che suona un registratore a quattro tracce a cassette, insomma, quindi fai, come dicono oggi, i tape loop, diciamo, ambientali, e oltre a quello usa anche gli effetti, è un po' il direttore d'esecuzione del progetto. Nicola Savelli alla batteria preparata e Paolo Malavasi al basso tuba. Quindi insomma c'è una sorta di composizione strana, non è la classica rock band, diciamo. A seguire invece i Tremà, che è un duo sicolo calabrese ormai abbastanza conosciuti, hanno fatto vari album, mi pare tre dischi, una cassetta e poi un vinile insieme a Charlemagne Palestine, che è uscito l'anno scorso e è molto bello, insomma sono tutti molto belli. Insomma, il duo è composto da Giuseppe Candriano ai synth modulari e Giovanni Sodisco alla batteria, e propongono, insomma, ve l'avevo già parlato in realtà, però un ripassino non fa mai male, un live che suonava molto su, ovviamente, sulle timbriche basse sia della batteria che dei synth che Giuseppe utilizza in un modo abbastanza particolare, diciamo, non tanto per stupire ma per creare un impasto, un'unione timbrica tra batteria appunto e elettronica. Quindi sarà un live molto tribale, oscuro e suonato benissimo, tra l'altro, e poliritmico, diciamo, ecco, con dei ritmi molto molto particolari e elaborati. Insomma, Pontormo all'inizio, e non so spiegarvi il genere, diciamo, potrebbe essere almeno questo live una sorta di tra il free e l'ambient, il trip hop, insomma, queste cose qua. Sentitelo, noi intanto ci vediamo settimana prossima, credo, cioè ci sentiamo anzi settimana prossima, che credo non manderò live ma farò qualcos'altro, mi verrà in mente. Tenete duro, tenete durissimo e a presto. Radio Wombat 8 Hertz, ciao. Thank you. Thank you. Thank you. grazie per aver resistito fino a quest'ora. Boh, facciamo l'ultima se volete. No. Sì, vale! Anche altri 10. No, sono cazzi. Sono cazzi vostri. Siamo preparati. È presto. Sì, stai fumando. Stai fumando. Thank you. anche noi. Adesso ci possiamo divertire. Cazzo, mi hai messo il tempo facile.